piano. Di Enrico Ruggeri. Lo sappiamo bene, al Falco e il Gabbiano capita spesso che a un grande talento artistico corrisponde a una personalità problematica, in qualche caso addirittura disturbata, con dei grandi valori, grandi creatività, magari accompagnati da instabilità, da fobie, da psicologie complicate, da cadute pericolose. Bene, il nostro protagonista di oggi è probabilmente uno dei grandi esempi di questo binomio, di questo matrimonio pericoloso tra creatività e disagio. È riuscito a entrare nel Pantheon dei compositori più grandi del Novecento, ha scritto poesie, romanzi importantissimi nella cosiddetta Big Generation, è stato capace di convivere con tutte le sue difficoltà esistenziali, però ci ha lasciato canzoni fuori dal tempo. Alleluia, senza dubbio il brano più famoso di Leonard Cohen, è una canzone che è uscita nel 1984, è stata reinterpretata da decine di artisti, Bob Dylan, Jeff Buckley, solo per citarne due. Le cover sono almeno 200. Una è presente addirittura nel cartone animato della DreamWorks, Shrek. Io ho sentito perfino una tipa che cantava Alleluia da Amici, per farvi capire fin dove è arrivato Leonard Cohen. Ma Cohen è stato molto più di questo, molto più di una canzone. È stato un artista complesso, con mille facce, non solo un cantautore con uno stile e una voce inconfondibili, uno che ha attraversato decenni di cambiamenti culturali, sociali, musicali. È stato un autore che in carriera ha scritto, ha cantato delle questioni più importanti per l'uomo, dalla religione all'amore, la solitudine, le ingiustizie sociali. E poi è stato uno scrittore di grandissimo livello, un poeta inserito di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame, stimato da tanti colleghi, perfino da Lou Reed, che non era certo tenero con nessuno. Lou Reed l'ha definito il cantautore più grande e più influente. Well, he's not rock and roll. Leonard non fa rock and roll, neanche volendo usare la più fervida immaginazione. Ma che testi meravigliosi, mio Dio, sempre eccezionali. E poi lui sembra sempre saggio. Sai, la gente nelle mie canzoni non è mai saggia, neanche lontanamente. È sempre nel mezzo di una battaglia. Io ho sempre visto meglio le cose quando ero nel mezzo di un conflitto. Leonard Norman Cohen nasce a Montreal, in Canada, nel 1934, da una famiglia di immigrati ebrei. Il padre è di origine polacca, ha un'azienda tessile che produce abiti da uomo, e l'infanzia di Leonard è segnata subito da un evento che sarà un'ombra lunga nel corso della sua vita. Quando lui ha 9 anni, il padre muore prematuramente. La sua reazione è anomala per un bambino della sua età, lo racconta lui stesso nel documentario di Liam Lanson che si chiama I'm Your Man. The first time I actually wrote anything. La prima volta che ho scritto qualcosa che ritenevo avesse un significato fu dopo la morte di mio padre, quando avevo 9 anni. Ho preso uno dei suoi papillon, l'ho tagliato a metà e ci ho inserito un piccolo messaggio. Poi l'ho seppellito in cortile, nel giardino. Non avevo altro modo di entrare in contatto con un evento misterioso che, curiosamente, non mi aveva sconvolto. Mi sembrava normale che mio padre fosse morto. Sembrava che la sua morte facesse parte di quegli eventi ineluttabili della vita e che non si possono rifiutare e nemmeno giudicare. Il nonno materno di Leonard era uno scrittore lituano. Lui Leonard studia letteratura inglese all'Università di Montreal, non è uno studente modello, però intanto ha già cominciato la sua attività letteraria. L'esordio è nel 1955, lui ha 22 anni e scrive Le Tasques Compare Mythologies, è una raccolta di poesie che riscuote già grande successo, e la poesia per lui è il modo di esprimere un profondo disagio interiore. E lui parla di spiritualità, di sensualità, di sentimenti profondi, quei sentimenti difficili da decifrare, quelli che solo i grandi sanno raccontare. E lui ha una scrittura simbolica che colpisce. Quando è giovanissimo, un famoso critico dell'epoca, che si chiama Robert Weaver, lo definisce già il miglior poeta contemporaneo canadese. Eppure lui è ancora lontano dalla maturazione, dalla sua carriera musicale, preferisce la scrittura, la letteratura, non riesce a vivere una vita ordinaria, è uno tormentato, però è pronto a un incontro che gli cambierà la vita, lo porterà a una svolta improvvisa. Siamo nel 1960, lui ha 26 anni e da qualche tempo vive a Londra, però non ne può più del tempo inglese, della pioggia, del freddo. E in una banca, la filiale londinese della Banca di Grecia, lui incontra un uomo che lo colpisce perché sorride sempre. Gli racconta di essere appena tornato proprio dalla Grecia e lo definisce il posto perfetto per trovare serenità e pace. Ecco, l'idea di un luogo tranquillo, pieno di sole, dove potersi concentrare sulla scrittura, intriga Cohen. E lui, grazie a un po' di denaro che gli ha lasciato la nonna, compra casa a Idra, che è una piccola isola del Mar Egeo, e va a vivere lì, un posto senza comodità, senza luce elettrica, senza acqua corrente. Forse è proprio quello che gli serve, almeno così lui immagina. Il falco e il gabbiano. Leonard Cohen ha meno di 30 anni, si è trasferito in Grecia, nella piccola isola di Idra, in una situazione molto scomoda, senza acqua, senza elettricità, e però lui vede questa casa come il posto giusto per affrontare e vincere i suoi demoni interiori. La casa la compra con $1,500. C'è un'enorme terrazza con vista sulla montagna e sulle case bianche e scintillanti. Le stanze sono ampie e fresche. Le finestre profonde sono incastrate in mura spesse. Credo che abbia circa 200 anni e molte generazioni di pescatori devono aver vissuto qui. Farò qualche lavoretto ogni anno e in poco tempo diventerà una bella villa. Vivo su una collina. La vita qui sembra essere la stessa di centinaia di anni fa. Durante il giorno puoi sentire chiamare i venditori di strada. Il loro vociare è molto musicale. Di solito mi sveglio intorno alle 7 e lavoro fino a mezzogiorno. La mattina presto c'è più fresco, ma mi piace anche quando fa caldo, soprattutto ora, che il Mar Egeo è a 10 minuti dalla mia porta di casa. Tra le mura di quella vecchia casa di pescatori trova l'ispirazione per scrivere le sue opere di maggiore impatto. Nel 63 pubblica il romanzo di esordio The Favorite Game, poi 3 anni dopo il secondo, il più importante. È un romanzo che diventerà uno dei simboli della Beat Generation, assieme alle opere di Kerouac, di Allen Ginsberg, di William Burroughs. Il romanzo si chiama Beautiful Losers, belli e perdenti. È già il titolo, hai già vinto metà della tua battaglia con un titolo così. È il frutto perfetto della sua vita di quel periodo, perché lui mangia pochissimo, prende costantemente anfetamine e il romanzo non segue una trama lineare, è scritto come un vero e proprio flusso di coscienza, una serie di illuminazioni con questo mix che conosciamo bene perché lo abbiamo visto in tanti artisti, questo mix di talento e effetto della droga dà vita a qualcosa di veramente originale. Nel romanzo ci sono già molti dei temi che più tardi ricorreranno nella sua carriera di musicista: la religione, il misticismo, l'eros, la critica alla società contemporanea. L'opera suscita scandalo ma anche ammirazione. Alcuni critici lo stroncano e altri invece paragonano il romanzo alle opere di Joyce, di Henry Miller. Beautiful Loser, insomma, comincia a ispirare gli ambienti della cosiddetta controcultura americana, diventa per esempio l'opera di riferimento di Lou Reed. E così Cohen descriveva il romanzo al suo editore: questo libro è una storia d'amore, un salmo, una messa nera, un monumento, una satira, una preghiera, uno strillo, una mappa per attraversare luoghi selvaggi, uno scherzo, un insulto di cattivo gusto, un'allucinazione, una noia, uno sfoggio irrilevante di virtuosismo malato. In breve, una sgradevole epopea religiosa di incomparabile bellezza. Ci immaginiamo Cohen in quella piccola isola, con una vita che assomiglia molto a quella di un eremita, di un uomo impegnato a combattere con se stesso e più che impegnato a dar spazio agli altri. Poi c'è una donna, la prima di tante, che rompe questo incantesimo, tira fuori Leonard da questo buco nero che rischia di diventare sempre più profondo. Il nome è Marianne Eilen, è una ragazza norvegese molto bella, abbandonata con un figlio io sull'isola greca, cioè il marito l'ha lasciata lì con un figlio. Marianne sarà il vero grande amore di Cohen. Il loro rapporto durerà quasi 10 anni, però è un legame che non si interromperà mai. Lei lo tira fuori dalla sua depressione, dall'abuso di droga, almeno in parte lo tira fuori, lo affianca con pazienza, lo aiuta a riaprirsi al mondo. Marianne è la musa ispiratrice e lei lo sarà anche dopo la fine del loro rapporto. Cohen le dedicherà brani importanti come Bird on Wire, So Long Marianne, e così lei descriverà Leonard e il loro amore molti anni dopo. Oh, era bellissimo. Non avete visto le foto di Leonard da giovane? Era meraviglioso. E nemmeno credeva di esserlo tanto. Avevamo problemi, entrambi. Non ne avete idea. Spesso ci mettevamo davanti allo specchio prima di uscire e ci chiedevamo chi fossimo quel giorno e cose così. Oddio, quanto siamo strani noi esseri umani. È un amore che arriva al capolinea dopo 10 anni. Cohen scrive So Long Marianne proprio quando la relazione sta finendo ed è una rottura che costa cara al nostro protagonista, perché cade di nuovo in depressione, viene colpito da un esaurimento nervoso dal quale si riprenderà solo dopo molto tempo. Però è un passaggio fondamentale, è il momento in cui lui passa dalla scrittura alla musica. Nel 67 esce il suo primo album, si chiama Songs of Leonard Cohen. Viene accolto male dal pubblico perché sono gli anni del boom del rock, della musica diciamo di ispirazione hippie, del mondo fricchettone di Woodstock. Lo stile di Cohen non è al passo con quei tempi, scrive brani intimi, forse al limite più vicini al folk, non è lontano da un artista che in quel momento invece è ai vertici, cioè da Bob Dylan. Però la musica di Cohen è meno diretta, è meno comprensibile, è più raffinata, e in più lui ha una difficoltà supplementare: non è un istrione, non ama esibirsi in pubblico, anzi ha paura di esibirsi in pubblico. Poi c'è il disco che ha un retrogusto amaro, triste, il tono non è aggressivo come il rock di quegli anni, è soffuso, è intimo. Un altro fan famoso di Leonard Cohen ovviamente è Nick Cave, che parla così della difficoltà per la musica di Cohen di affermarsi. Leonard Cohen è stato il primo artista che ho scoperto da solo. Ero molto giovane. È il simbolo della mia indipendenza musicale. Mi ricordo che gli altri ragazzi pensavano che la sua musica fosse deprimente. Ho realizzato fin da subito che questa teoria della depressione fosse ridicola. La tristezza di Cohen era di ispirazione, mi dava tanta energia. Ho sempre tenuto a mente tutto questo quando qualcuno diceva che i miei dischi erano mosci e deprimenti. Nel 1968 Cohen conosce Susan Elrod, che diventerà la madre dei suoi due figli Adam e Lorca. In quel periodo esce uno dei brani più famosi che si chiama proprio Susan, ma non è dedicato a lei, ma a una ballerina molto bella, moglie di un suo amico, Susan Verdal. La canzone lascia immaginare un rapporto di tipo sessuale tra i due, ma Cohen si dimostra un signore e quantomeno smentisce. Però sta vivendo le sue difficoltà personali, psicologiche, la difficoltà di salire sul palco di fronte al pubblico. Insomma, ci vorrà una donna, un'amica, per farlo sbloccare. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di Leonard Cohen, uomo dalle tante sfaccettature, uno che nella vita ha combattuto le sue battaglie interiori, ha vinto grazie al suo talento, ha fatto diventare arte i suoi tormenti, come capita ai grandi artisti. Uno scrittore, un poeta, un cantautore con una vita ricca di amori, spesso falliti, però celebrati sempre attraverso la sua musica. E lo ritroviamo nel nostro racconto quando ha 34 anni, ha abbandonato uno stile di vita fatto di eccessi, di instabilità, quello che aveva segnato gli anni della Grecia e della sua relazione con Marianne, la sua musa, il suo grande amore. In quegli anni però, siamo alla fine degli anni 60, Cohen conosce Susan Elrod, che dà alla luce i suoi due figli e che dà a Leonard delle certezze, una stabilità emotiva. Poi arriva un'altra donna nella sua vita, un'amica, si chiama Judy Collins, è una cantautrice americana che lo aiuta a vincere la paura del pubblico, di esibirsi davanti alla gente. Beh, l'amore, le donne sono un elemento costante nella vita di Cohen e ne parlerà così in un'intervista quando era già avanti negli anni. Approaching a woman is like approaching a blank. Avvicinarsi ad una donna è come avvicinarsi ad un foglio completamente bianco, la mattina, da scrittore. Insomma, nessuno è padrone in questo tipo di impresa. Di sicuro io non so come fare. Puoi solo avvicinarti con il cuore in mano. Nessuno sa bene esattamente come fare. Il cuore si cuoce lentamente nel petto, come il kebab. Tutti sono in difficoltà, nervosi, anche se magari non lo danno a vedere. Cohen una volta disse: io ho scritto per cercare di essere un uomo affascinante che conquistasse donne affascinanti, e sicuramente insomma ci è riuscito. Torniamo a lei, a Judy Collins. I due si conoscono nel 66, nasce una stima reciproca, fin dal primo giorno cominciano a collaborare artisticamente e contribuiscono l'uno alla carriera dell'altro. Sono due personalità singolari, complementari, così Judy ricorda il suo primo incontro con Cohen. Aprì la porta e mi trovai di fronte a una bella figura, leggermente curva. Il suo bel viso era incorniciato da un sorriso dolce, un sorriso coinvolgente, un sorriso raro. Era il sorriso di un artista intelligente e sensibile. Capii in un attimo che era speciale e che non mi importava che non sapesse scrivere canzoni. Quando Judy dice che Cohen non sa scrivere canzoni, in realtà si riferisce a quell'insicurezza davanti al pubblico che lui non è mai riuscito a affrontare, a risolvere. È dubbioso, è convinto di non avere talento come compositore, come cantante, non vuole esibirsi. Quando lei cerca di convincerlo, la risposta di Cohen è: non posso, morirei di imbarazzo. Però Judy conosce bene il valore artistico del suo amico, ha letto i suoi romanzi, le sue poesie, i testi delle sue canzoni. A un certo punto intonò Dress Rehearsal Rag, una canzone oscura, autentica e brutale sulla contemplazione del suicidio, il pensiero della morte che si insinua come una mano ricurva che si fa strada fra gli occhi e le viscere. Sapevo già che avrebbe fatto parte del mio nuovo album. E Judy sa che le parole di quell'uomo, elegante, divertente, intelligente, avranno un futuro. E prende i testi di Cohen, li canta con trasporto come se fossero suoi, convince poi Leonard a esibirsi, lo sprona, lo aiuta nella scrittura di quell'album col quale entrerà finalmente nelle classifiche mondiali. L'album è Songs from a Room, siamo nel 1969, insomma l'amicizia e la collaborazione tra loro continuerà per i decenni successivi. E questo album, il secondo, segna l'ingresso delle canzoni di Cohen nella hit parade inglese e canadese. Ci sono delle canzoni che sono tra le sue più conosciute, come Bird on Wire, che fa riferimento agli anni della Grecia, Story of Isaac, una canzone in cui Leonard, attraverso un episodio biblico, dichiara la sua rabbia nei confronti di chi fa la guerra. Insomma, ogni canzone tocca un tema diverso, però sono tutte accomunate dalla sua grande sensibilità, una sensibilità semplice, diretta e in questo momento più comprensibile rispetto a quella dell'album d'esordio, che era un po' ermetico. La posizione di Cohen comincia a farsi chiara. Le sue canzoni sono ben lontane, diciamo, dai suoni di Woodstock, dal rock and roll, però Leonard Cohen si ritaglia uno spazio preciso nella scena mondiale. Judy Collins ormai è diventata una specie di personal coach e lui nel 70 inizia finalmente il suo primo tour, vince la paura del palcoscenico, suona negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e un anno dopo esce il terzo album, Songs of Love and Hate. Qui siamo veramente oltre il capolavoro. Nel 72 c'è un secondo tour in Europa, in Israele, supera la sua fobia, la celebra addirittura con un album dal vivo, Live Songs. Insomma, Cohen ormai è un cantante di fama mondiale. I remember you well in the Chelsea Hotel. E ci sono amicizie importanti in quella fase della sua vita, amicizia con altri musicisti, e intanto Bob Dylan, che lo stima molto, e poi c'è Janis Joplin, alla quale lui dedica la canzone Chelsea Hotel No. 2, che è uno dei suoi brani più celebri. È un pezzo crudo, sincero, dolce, che racconta il suo rapporto con lei. E, insomma, Janis Joplin è una che ha avuto una vita tipo quella di Leonard Cohen, però non ce l'ha fatta, non è riuscita a uscire dai suoi demoni, dai suoi fantasmi, dall'alcol e soprattutto dall'eroina. E un celebre speaker radiofonico irlandese, John McKenna, parla così del rapporto tra Cohen e Janis Joplin. The song Chelsea Hotel is about a heroine of a different kind. La canzone Chelsea Hotel parla di una donna che ha deciso di entrare a far parte del mondo del rock. Janis Joplin era amica di Leonard Cohen e morì nel 1970 nell'Edmark Hotel di Hollywood, apparentemente di overdose. La canzone di Cohen è ambientata in un hotel di New York, il Chelsea Hotel, che ha ospitato molti cantanti e musicisti importanti. Tutta la canzone è incentrata su Janis Joplin e su due persone che si sono corrisposte più in senso artistico che sentimentale. Il rapporto iniziato al Chelsea Hotel non pone questione di amore, non è una questione di amore. Cohen nel testo ribadisce di non avere mai sentito Janis dire ho bisogno di te o non ho bisogno di te o altre cretinate del genere, per poi chiudere nei versi finali in un tono del tutto antiromantico ma vero e sincero. Non voglio suggerire che ti abbia amata più di altri, non posso tener conto di ogni passero caduto. Mi ricordo bene di te al Chelsea Hotel. Tutto qui. Non ti penso poi nemmeno troppo. Nel brano Chelsea Hotel Number 2 ci sono chiari riferimenti alla dipendenza da eroina della cantante, anche alla relazione sessuale immancabile tra i due. Sono indiscrezioni che fanno chiacchierare il pubblico, che è affamato di gossip, indiscrezioni che peraltro si diffondono proprio per colpa di Cohen, perché in un'intervista per sbaglio conferma che il pezzo è dedicato alla Joplin. È una leggerezza che lui non si perdonerà mai. Tempo dopo lui dirà: se ci fosse un modo per chiedere perdono a un fantasma, vorrei chiedere perdono a Janis per avere inconsapevolmente rivelato quella indiscrezione. A questo punto Leonard Cohen è all'apice del successo e della popolarità. Arrivano i tour in America, in Europa, le grandi amicizie, le grandi affinità con i grandi. Insomma, è una posizione che tanti ambirebbero, ma lui in realtà per carattere la regge malissimo. Ci sono troppe attenzioni, troppi fari puntati su di lui e il rischio è sempre lo stesso, la depressione che lui cerca sempre di tenere sotto controllo, però è fuoco sotto la cenere. E alla fine degli anni 70 lui si ritira a vita privata, mette fine ai suoi tour, alle esibizioni in pubblico. C'è un'unica eccezione, una serie di concerti nel 77 per Death of Ladies Man, che è un album scritto con l'aiuto di Bob Dylan, che gli sarà vicino anche in questi anni nei quali lui è lontano dalla scena. È un'amicizia profonda quella tra i due. Il distacco da quel mondo dura fino al 1984, quando arriva Alleluia, la sua canzone, l'abbiamo detto, di maggior successo. È un capolavoro che gli costa molta fatica. Scrive durante la prima stesura 80 strofe diverse. Questa a tutti i ragazzini che cercano di scrivere canzoni adesso se la dovrebbero segnare, 80 strofe diverse. Alla fine sceglierà solo le 6 migliori. L'album è un flop, la canzone non riscuote neanche tanto successo, però Cohen crede in quel pezzo, Bob Dylan ci crede ancora più di lui. Questo è un dialogo avvenuto tra i due riguardo a Alleluia. Leonard, questo è senza dubbio il mio pezzo preferito. Quanto tempo hai impiegato a scriverla? Non ci crederai, ma ci ho messo 5 anni. E tu quanto tempo hai impiegato a scrivere la canzone I and I? Ma, non so, 15 minuti. Alla fine Cohen riscriverà Alleluia una 70 di volte e ogni volta la cambierà durante i suoi concerti, fino al 1988. E siamo a San Sebastian in California e lui canta quella che i critici considerano la sua versione migliore, lunga quasi il doppio della versione originale. Alleluia diventa un inno alla vita in cui lui riversa tutto quello che lo rappresenta: il dualismo, il tormento, l'amore e la fede, la dannazione e la redenzione. E arriviamo alla fine degli anni Ottanta. Cohen si ritira di nuovo dalle scene perché comincia una vera e propria ricerca religiosa che lo porta verso il buddismo. Lui continua a osservare i precetti ebraici, ma sapete che il buddismo è l'unica religione che ti consente di avere altre religioni, per così dire. Insomma, lui sta cercando nuovi spunti per riflettere, per ascoltare il suo io. È sempre in bilico tra il suo genio e la sua depressione. Si trasferisce in un centro zen sul Monte Bedi vicino a Los Angeles e rimarrà lì per alcuni anni. E Cohen è lì in quel monastero, quindi le apparizioni sono scarsissime, a parte The Future, che è comunque un disco ben riuscito. Cohen non pubblica più nulla per tutti gli anni 90, c'è qualche collaborazione qua e là per delle colonne sonore, per esempio Natural Born Killers di Oliver Stone, qualche premio per la carriera. Nel 91 viene inserito nella Canadian Hall of Fame, nel 93 vince un premio per la sua carriera poetica. Ma proprio mentre sembra trovare, diciamo, l'equilibrio interiore, in Canada c'è qualcuno che si sta approfittando della situazione, perché Kelly Lynch, il manager di Cohen, approfitta del suo ritiro e gli sottrae circa 5 milioni di dollari dal patrimonio. Insomma, molti manager sono fatti così. Leonard deve tornare in patria, per citare in giudizio la sua manager, finisce in tribunale per 2 anni, viene minacciato di morte dalla Lynch, però Cohen sembra aver fatto tesoro degli insegnamenti del centro zen di Sasaki. Insomma, resiste alle offese, resiste alla pressione mediatica e alla fine vince la causa. È pronto per un altro colpo d'ala, torna al suo pubblico e alla sua produzione musicale. E così gli anni 2000 sono gli anni della rinascita. Cohen torna sui palcoscenici più importanti. Nel 2002 pubblica uno degli album di maggior successo, The Essential Leonard Cohen. È un lavoro particolare, traspare ovviamente la maturità, la consapevolezza dopo tutti gli anni vissuti in maniera tormentata. Poi escono ben 3 album dal vivo, l'ultimo nel 2012, Songs from the Road. Cohen ormai ha la dimensione artistica della leggenda vivente, ma soprattutto è un uomo che si è rialzato più volte dopo aver toccato il fondo. Nel 2007, a 73 anni, vince per la prima volta il Grammy per il miglior album dell'anno. Nel 2008 viene finalmente iscritto nella Rock and Roll of Fame, la sua consacrazione. E siamo ai giorni nostri. La vita riserva a Cohen ancora un ultimo grande dolore. Nel luglio del 2016 riceve la notizia della morte di Marianne Illen, la bella norvegese, ricordate, con cui aveva vissuto gli anni tormentati ma da sogno sull'isola di Idra in Grecia. Una donna che ha lasciato in cambio di una vita più stabile, di una famiglia con dei figli, però è una donna che lui non ha mai dimenticato, che probabilmente non ha mai smesso di amare. 2 giorni prima della morte di Marianne, Leonard le aveva mandato una lettera perché era consapevole delle sue condizioni di salute. Marianne, è venuto il tempo in cui si è vecchi e i nostri corpi cadono a pezzi. Credo che ti seguirò presto. Sai che ti sono così vicino che se allungassi la mano potresti toccare la mia. E sai che ti ho sempre amata per la tua bellezza e la tua saggezza. Ma non serve che io ti dica di più, poiché lo sai già. Adesso voglio solo augurarti buon viaggio. Addio, vecchia amica. Amore infinito. Ci vediamo lungo la strada. E quasi a volerla raggiungere, Leonard Cohen muore 4 mesi dopo. Il 7 novembre 2016 si spegne nel suo appartamento di Los Angeles a 82 anni. Il figlio Adam lo ricorda in queste righe molto toccanti. Ci sono tante cose per cui vorrei ringraziarlo, anche solo per l'ultima volta. Lo ringrazierei per la saggezza che ha dispensato, per i fiumi di conversazioni, per il suo spirito e umorismo abbaglianti, per la musica. Intanto per la sua musica che mi ha sedotto fin da bambino, poi per il suo incoraggiamento a fare della musica mia, infine per il privilegio di essere stato capace di far musica con lui. Grazie papà. E si chiude così la parabola terrena di un uomo che ha vissuto tante vite, ha combattuto tante battaglie, le ha vinte, soprattutto ha vinto la battaglia con se stesso. Ha saputo dare grandi colpi d'ala a Leonard Cohen, ma soprattutto ci ha lasciato una musica sublime, inconfondibile, e ha lasciato tante persone che hanno dichiarato più volte di ammirarlo, tanti artisti. Io sono tra questi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi nei miei, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese e Giulia Lauricella, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.